Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di due libri. Il primo parla di arte, il secondo di economia, anzi di nuova economia. Ma cominciamo a parlare di arte. Buonasera Claudio Borghi Aquilini. Buonasera. Investire nell'arte, libro edito da Sperry & Kuffer con la prefazione di Francesco Micheli. Ecco, un libro dedicato, come dice il titolo, a quanti hanno qualche euro da mettere via e vogliono investire in qualcosa di bello. Investire nell'arte è ancora di moda, Claudio Borghi Aquilini? Ma direi che non è ancora di moda, vale a dire, il fatto di considerare l'arte come un investimento, direi con dignità pari a quello di altre forme più consolidate di investimento, è un dato acquisito o quasi acquisito ormai internazionalmente, ma qui in Italia molto molto meno. Per cui mi limito semplicemente a cercare di coprire una mancanza che nel panorama dei libri o dei manuali sulle possibilità di investimento qui in Italia al momento c'è. Ecco, un libro molto attuale perché parla appunto delle attuali tendenze dell'arte, dei consigli per gli acquisti, ma si apre anche con questa presentazione di Francesco Micheli in cui si dice: connivenza, opacità, insider trading in un mercato non regolato, forse l'unico rimasto, ove domina il conflitto di interesse esattamente come nell'economia finanziaria. Quindi è un po' una giungla, Claudio Borghi. D'altra parte è abbastanza difficile trovare solo del buono o solo del cattivo, no, negli investimenti. Quando un tipo di investimento diventa simile agli altri, poi dopo bisogna riuscire a tener presente anche il brutto degli investimenti classici, quindi con i conflitti di interesse, con tutte quelle situazioni appunto opache che caratterizzano anche gli altri tipi di investimento. In questo lo stiamo vedendo, però ci sono quantomeno degli aspetti positivi, vale a dire che mentre le altre forme di investimento stanno rivelando dei limiti insospettati, e lo sa benissimo chi magari ha pensato di investire nel mattone oppure anche in cose che pensavano fossero sicurissime come titoli di Stato, nel mercato dell'arte al momento la speculazione è molto molto molto lontana, specialmente per quello che riguarda l'arte italiana. Ecco, però bisogna appunto avere un po' il coraggio di puntare su artisti magari nuovi, artisti magari dell'avanguardia, come si dice, e aspettare. Quanto bisogna aspettare? Qual è il limite di tempo, diciamo così, ovviamente non ci sono delle regole precise come in tutti gli altri investimenti, ma per dare un po' un'indicazione, quanto deve investire e per quanto tempo deve pensare di mantenere qualcuno che vuole iniziare a investire nell'arte? Allora, io delineo tre differenti tipi di investimento, che sono quello che riguarda gli artisti che io chiamerei storicizzati, vale a dire su cui ormai c'è consenso che entreranno a far parte o che sono entrati a far parte della storia dell'arte, quelli che sono lì, diciamo così, e quelli che invece sono i contemporanei. La similitudine è quella con le opzioni, vale a dire quanto più l'artista è giovane, contemporaneo, così di questo tipo, quanto più la possibilità che vada a valere zero in futuro è elevata. Però se uno ha la fortuna di trovare l'unico o i pochi che poi dopo faranno un gran successo, i guadagni saranno altissimi. Mentre invece la parte di investimento vero e proprio, diciamo così, tradizionale, io la riserverei agli artisti che ormai sono considerati storicizzati e quindi hanno un valore che sì, potrà salire o scendere così come quello di ogni altro asset, ma una parte di valore cristallizzata. Ecco, comunque è un valore che viene messo alla prova solo quando uno poi vuole vendere quest'opera d'arte, non è che ci siano delle quotazioni, diciamo così, continue come c'è per un valore di borsa, per un'azione. E il punto è proprio questo, è un motivo per cui il mio libro dovrebbe essere, secondo me, interessante anche per chi pensa di conoscerlo bene, insomma, il mercato dell'arte, o anche per professionisti del settore, perché in realtà le cose stanno cambiando moltissimo. Uno dei punti che faccio è che il cambiamento epocale che sta avvenendo in tutto il mondo nel mercato dell'arte è proprio la possibilità invece di riuscire a dare un prezzo in diretta ai propri beni, perché grazie a internet, grazie alla possibilità di trasmettere le immagini e soprattutto anche al fatto che le case d'asta ormai mettono sempre online i prezzi delle aggiudicazioni, è molto ma molto più facile rispetto al passato farsi un'idea abbastanza precisa di quello che potrebbe essere il valore o il bene di un quadro o di un'opera che noi abbiamo comprato. Allora possiamo magari concludere dicendo che per iniziare a investire nell'arte la somma necessaria sono 17,90 euro, che è il costo di queste 220 124 pagine del libro di Claudio Borghi Aquilini, Investire nell'arte, pubblicazione di Francesco Micheli, edito da Sperling e Kuffer. Grazie a Claudio Borghi. E ancora buonasera. Dopo aver parlato di investire nell'arte con il libro di Claudio Borghi Aquilini, abbiamo con noi Luca De Biase. Buonasera Luca. Buonasera. Luca De Biase, giornalista del Sole 24 Ore, ha scritto insieme ad altri economisti il libro Del Cooperare, manifesto per una nuova economia, edito da Vita in collaborazione con Gian Giacomo Feltrinelli, editore. È un libro in cui si parla dell'economia del benessere, ma soprattutto del bene. Infatti la prima riga dell'introduzione dice: è possibile innescare una forma di contagio del bene? E allora ecco questo manifesto per una nuova economia. Come nasce questa iniziativa, Luca De Biase? Beh, Vita, come sappiamo, si occupa di una visione dell'economia diversa da quella prevalente nel ciclo, diciamo, dell'individualismo, iperfinanza, iperconsumismo che c'è stato. E direi che l'iniziativa parte dal presupposto che probabilmente quel ciclo dell'individualismo iperfinanziario e iperconsumista si è esaurito, lasciando dietro le spalle un bisogno di prospettiva, di progettualità, di visione che è molto importante. Noi vediamo che non sarà probabilmente il mercato nella sua forma impersonale a risolvere il problema, né probabilmente lo sarà un ritorno di statalismo. E la dimensione della relazione cooperativa razionale ma attenta alla persona più che all'individuo potrebbe essere la dimensione nella quale si sviluppa una nuova visione dell'economia. Ecco, questo libro, vi dicevo, è appunto composto da numerosi saggi. C'è Pietro Barcellona, giurista sull'economia del noi, Stefano Zamagni, economista sull'economia del dono, Mauro Magatti, sociologo sull'economia del generare, Pierangelo da Crema, un altro economista sull'economia del gesto, Giulio Sapelli sull'economia del cooperare. Quindi qualcosa che diciamo guardi un po' oltre il mercato e lo Stato, ma che in fondo sfrutti poi il mercato dello Stato per fare un'economia che sia basata più sulle relazioni personali e sugli interessi non strettamente monetari, ma un interesse di un benessere complessivo. È un po' un'utopia? Ma le utopie servono innanzitutto perché spostano l'asse del possibile e della progettualità. D'altra parte non è un'utopia, nel senso che la dimensione della cooperazione, della solidarietà, del volontariato sono dimensioni che hanno una rilevanza economica molto significativa, e in questo periodo in cui la rete sta prendendo il sopravvento sulla organizzazione delle comunicazioni, noi possiamo vedere che all'interno della rete le forme di cooperazione sono molto importanti e crescenti. Si innesca quindi un senso di ricostituzione delle relazioni umane per la progettualità economica su una possibile innovazione che renda tutte queste attività più efficienti e capaci di incidere sulla realtà. Ecco, proprio il tuo saggio, breve saggio, si chiama Economia del comunicare. Quindi nella comunicazione, che molto spesso è vista solo come un passatempo, magari Facebook o Twitter sono viste quasi come delle curiosità, ma possono invece diventare qualcosa che ci aiuta, che aiutano l'economia a diventare un po' più seria, un po' più vicina alle persone. Ma questo è quello che è possibile. Naturalmente noi vediamo realizzate molte cose che hanno una funzione di passatempo, ma vediamo anche nascere iniziative che hanno la capacità di generare valore vero. Tutti naturalmente pensano al grande apporto educativo che è venuto fuori da Wikipedia, che è una forma di collaborazione del tutto gratuita per quanto riguarda le persone che contribuiscono, ma ci sono molte dimensioni in pieno sviluppo, dal consumo cooperativistico, pensiamo ai grandi successi come quelli dello scambio di case, della informazione sulle possibilità e opportunità di acquisto che derivano da consigli che le persone si danno gratuitamente, costruendo su un valore che non è particolarmente economico, ma quello della fiducia. E la fiducia, certo, si costruisce pensando e facendo dialogare le persone nella loro completezza. E cercando anche di rendere più efficiente il mercato, cercando che il mercato sia qualcosa di veramente aperto, di veramente capace di far conoscere le opportunità, e quindi valutando positivamente anche realtà che magari sono viste in maniera critica, come appunto il mercato da una parte e lo Stato dall'altra. Rendere più efficienti queste realtà è l'obiettivo che in fondo si può avere come sintesi in questo libro? Io penso di sì, la struttura dell'innovazione sta andando in questa direzione in questo momento, e il bisogno della società di avere una visione che risponda alle esigenze di cui abbiamo parlato è altrettanto importante. Questo è un momento di grande cambiamento e questa è un'ipotesi. Ecco, per capire questo cambiamento, allora un tassello importante è il libro Del Cooperare, Manifesto per una nuova economia, a molti autori, tra gli altri Luca De Biase, che è stato qui con noi, edito dall'editore Vita in collaborazione con Feltrinelli, costa solo 10 euro per 190 pagine. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Roberto Scartritti in regia, Luca Cremonese in redazione, l'appuntamento è per sabato prossimo.